once more, sip no more. Con tuo sorriso finti, freni ai tuoi sensi, o travestimenti contro i dissensi, affari spenti, sentimenti immensi, senza rimpianti, abbandonarsi al mare.